Noi siamo partiti a marzo facendo un appello firmato da alcuni esponenti politici, ex attivisti politici e sindacali di questa città per proporre appunto qualcosa di sinistra per Bologna, cioè di creare una lista unitaria attorno a una candidatura unitaria a sinistra del PD. Dopo questo appello che abbiamo lanciato ci sono aggregati anche organizzazioni politiche, in primo luogo il Partito Comunista Italiano e Rifondazione Comunista, poi è entrata dentro questo percorso anche la consigliera comunale Dora Palumbo, adesso nel gruppo misto, che è ormai in consiglio comunale l'unica voce di opposizione a sinistra Bologna, dopo che Coalizione Civica ormai è molto chiaro che si schiererà col PD e con l'Epore alle prossime elezioni. E quindi una lista formata sia da organizzazioni politiche, ma da chi come me, come Agostino Giordano e come altri, non hanno più appartenenze politiche, ma pensano che sia necessario a Bologna, come a livello regionale e a livello nazionale, mettere in campo un'opposizione politica e sociale di sinistra alle politiche governative e locali che vengono avanti, che vengono riproposte quotidianamente, e sono politiche assolutamente padronali, antipopolari, come abbiamo visto anche recentemente con la questione della sospensione del blocco dei licenziamenti, che è la proposta del giorno. 27 maggio vi riunirete in via del Pallone 8 e quindi vorrei chiederti che cosa dovremmo aspettarci da questo incontro. Ma il 27 maggio è un'assemblea pubblica dove ovviamente tutti i compagni e le compagne, le persone che hanno fatto parte di questo progetto, di quelle che sono interessate a entrarci, ci ritroveremo, faremo un po' il punto della situazione, abbiamo anche fatto partire dei gruppi di lavoro tematici per discutere le nostre analisi e le proposte a portare in campagna elettorale e anche dopo. Ma soprattutto giovedì in via del Pallone 8 al circolo AICS sarà l'occasione in cui definiremo sia il nome della nostra lista sia il nome del nostro candidato o della nostra candidata sindaco. Questo ovviamente non è un percorso chiuso, nel senso che chi vuole aggregarsi, chi vuole partecipare, chi vuole anche entrare in contatto con noi dopo il 27 maggio potrà farlo senz'altro, siamo assolutamente disponibili, ovviamente fino al momento in cui tecnicamente non dovremo depositare la o le liste e il nome del candidato. Comunque il 27 noi decideremo fondamentalmente due cose, il nome della lista e il nome del candidato o candidata. E a proposito di candidati, avete già delle idee su chi proporre? Sì, stiamo un po' vagliando alcuni nomi, però anche per rispetto a chi parteciperà e per rispetto alle persone direttamente interessate, penso sia giusto su questo mantenere un riserbo almeno fino all'assemblea di giovedì. Mentre invece sul nome della lista, diciamo, le cose si stanno un po' più schiarendo, dovremmo marcare il fatto che siamo a Bologna, che siamo a sinistra e che comunque dentro al nostro progetto saranno anche visibili i due per adesso partiti che fanno parte di questa nostra avventura politica elettorale. Nel frattempo vi siete già incontrati anche la settimana scorsa, volevo chiederti se c'erano già dei temi su cui il programma poteva convergere. Ma sì, noi abbiamo già cominciato a discutere insomma alcune cose. Allora, innanzitutto c'è il problema del lavoro, e con la notizia di oggi del fatto che verranno sbloccati i licenziamenti rischiamo davvero un disastro sociale anche nella nostra città, non viviamo sulla luna, quindi questo diventerà il tema centrale per noi in questa fase di primo inizio di campagna elettorale, quindi la massima attenzione al lavoro, a chi il lavoro non ce l'ha, a chi vive di lavoro precario e anche quelli che una volta erano cosiddetti lavoratori garantiti, che poi così garantiti non sono, e rispetto al Comune di Bologna anche la questione dei diritti sindacali, perché è impossibile che soltanto alcuni sindacati dentro ai dipendenti comunali possano avere diritti sindacali mentre altri come i sindacati di base invece ne siano esclusi. L'altro grande tema è quello dell'ambiente e quindi della vivibilità della città. Bologna ha un inquinamento atmosferico incredibile, una delle zone più inquinate d'Italia come tutta la pianura padana. Noi pensiamo che sia ora di chiudere ogni discorso su un ulteriore trasporto su gomma inquinante e invece aprire il discorso sulla questione dei trasporti non inquinanti. Da questo punto di vista qua c'è il nostro no più totale al passante, che non può essere green per definizione, perché comunque incentiverebbe ancora una volta il trasporto su gomma inquinante, al massimo spostando l'inquinamento da una parte all'altra della città ma senza risolvere il problema, mentre noi pensiamo che si deve puntare al servizio ferroviario metropolitano e a trasporti pubblici come il tram, ma il tram da ridiscutere, non il tram fatto per portare le persone a fico. Secondo te questa esperienza può essere ripetibile anche in altre città o magari anche a livello nazionale? Io me lo auguro, nel senso che la sinistra in Italia purtroppo viene da decenni di sconfitte anche pesanti, quello che una volta era il blocco sociale che si era costruito nel dopoguerra attorno al mondo del lavoro, fatto di partiti, sindacati, associazioni, ormai si è ridotto moltissimo. Si tratta appunto quindi, di, secondo me, di ripartire a Bologna come a livello nazionale, nel rimettere insieme un po' i cocci, rinunciando ai tentativi di egemonia che non avrebbero senso da parte di nessuno, e quindi di tentare, anche partendo da piccole cose per poi arrivare al più grande, a costruire una sinistra politica anche di classe, di opposizione, che sappia mettere insieme militanti politici, tanti sindacali e anche le organizzazioni politiche e sindacali che già ci sono, perché nessuno deve perdere la propria identità. E quindi sì, io spero che tutto questo possa servire anche a una ricomposizione più su larga scala.